oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dicono di alzare un po' la voce se è così, va bella, vale? Soprattutto in spia, che se non la sentite fuori non me ne frega un cazzo. Sa, sa, sa! Fa ancora un secondo. Oh! Proviamo ancora un secondo per sentire se mi sento con la voce. La coca arriva, no hay parra, tal lanza de humana. Si non sede si sedes non is. Da! Basta! They know they lie. Rising stars. They dancing they know. They dance through terror. Ah! Inutile resistere il desiderio. They robbing up. Sister, it's my cara. Tutto quello che è fatto la fortuna mi destina. No! Distruggi! Rovina! Spreca! Distruggi, rovina, spreca. Distruggi, rovina, spreca. Grazie. ancora l'attacca. Allora, prima che famo l'ultimo pezzo, volevo ringraziare moltissimo Valerio degli Inferno, che è venuto fino a qua da Roma apposta per fare il fonico a noi. Lo paghiamo una cifra di soldi, però vale la pena. Bella, grazie. È una gag, ovviamente. Allora, poi niente, bella riga, questo è il nostro primo concerto, siamo veramente troppo contenti di farlo qua e sicuramente dobbiamo ringraziare in ginocchio sui ceci, tipo così, feedback dal microfono, tipo grazie Nico, che sei un grande uomo, e lo sai che sto di qualcosa di sbagliato, per quello che sono... No, perché ci fa imbucare a discapito di tutti chissà quanti altri gruppi. Bella riga, questo è l'ultimo pezzo. Saluti e basta. Smack e smack. Aspetta, aspetta, colpa mia. che ho fatto l'ho fatto solamente per te. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto solamente per te. Tutto quello che faccio l'ho fatto solamente per te. Tutto quello che faccio l'ho fatto solamente per te. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto solamente per te. Tutto solamente per te. Grazie.